La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, un buon sabato a tutti, un buon cinema a tutti da Franco D'Assisi. Settimana con la consueta ormai decina di film che ci aspettano, nuovi nelle sale cinematografiche, settimana anche con tanta densità, tanta qualità, e quindi via subito a parlare di cinema, tra l'altro in questa trasmissione che sarà costellata anche di ospiti, ma anche importanti, ma ne parleremo fra poco. State con noi e non vi deluderemo. Cominciamo subito con Lo Sciacallo, Nightcrawler, il film con cui vogliamo aprire la nostra rassegna delle novità in sala. Un film interessante perché racconta un po' un aspetto del nostro sistema dell'informazione, della nostra società. Jake Gyllenhaal è il protagonista principale di questo film, che racconta la storia di un uomo che, disoccupato, non riesce a trovare lavoro, nel momento in cui per caso assiste a un incidente stradale e capisce quanto le immagini di questo tipo di situazioni possano essere importanti e soprattutto vendibili nella società dell'informazione di oggi, comincia appunto a fare lo sciacallo, cioè a girare nella notte, a cercare situazioni scabrose o incidenti, rapine da riprendere per rivendere poi il risultato alle testate di informazione, fino a quando la cosa non gli sfuggirà di mano. Mi scusi, signore. Sto cercando un lavoro. Nello specifico vorrei intraprendere una carriera con ampie opportunità di crescita. Chi sono io? Un gran lavoratore, con grandi ambizioni e tenacia nel perseguirle. Ora, non voglio illudermi, signore. Quando ero a scuola la mia autostima mi faceva pensare che i miei bisogni sarebbero stati sempre appagati. Ma so che il mondo del lavoro oggi non garantisce le certezze promesse alle generazioni precedenti. Io credo, signore, che le cose buone arrivino per colui che sa meritarsele e che chi come lei è arrivato alla vetta non ci sia arrivato per caso. Sicuramente una lettera, una domanda di lavoro un po' particolare per questo personaggio. Dicevamo, a un certo punto le cose gli sfuggiranno di mano diciamo così, comincerà anche a influenzare gli eventi della notte pur di arrivare al suo obiettivo. Un saluto a Boris Sollazzo. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senti, film di genere sicuramente, film molto notturno, questo firmato da Dan Gilroy, però anche un film, come dicevo prima, che ci aiuta a riflettere su un aspetto. Mi ricordo anche Eroe per caso un pochino, no? Raccontava questo mondo in cui il sistema dell'informazione nostro, occidentale, contemporaneo, si mischia anche a una sorta di voyeurismo che poi sicuramente porta alla lunga anche a risultati non sempre eccellenti. Sì, devo dire, a me è colpito molto il film, un po' perché parla anche del nostro lavoro, e quando parlo del nostro lavoro dico il mio e il tuo, non quello di critici cinematografici, ma quello di chi, insomma, facendo il giornalista, deve entrare nelle vite degli altri quel tanto che può diventare violenza. E insomma, Jake Gyllenhaal lo fa ampiamente. La cosa forse più interessante di questa settimana è che ci sono due film completamente diversi, come questo e quello dei Dardenne, che però forse parlano della stessa cosa, cioè parlano di giovani che non hanno alcun diritto di cittadinanza all'interno del mondo e che devono trovare il modo comunque di tirare a campare. E c'è chi lo fa in maniera onesta e c'è chi, come Jake Gyllenhaal, quasi come se fosse mosso dall'esterno, quasi come se fosse una marionetta, e chi lo muove dall'esterno, la necessità, decide di abdicare a qualsiasi tipo di etica per trovare un lavoro. E la regia è buona, non eccelsa, però buona, girato come se fosse un buon film d'azione. Qui la cosa veramente fenomenale, come al solito, è Jake Gyllenhaal, che invece veramente interpreta questo che diventa un invasato in maniera straordinaria, con pose schillacesche, e parlo di Totò Schillaci, nel senso con questi occhi sbarrati, queste movenze particolari, queste parole tirate fuori quasi per aforismi. Chiunque lo avrebbe fatto in maniera poco credibile, lui invece riesce a impersonarlo alla perfezione. E allora, questo è Nightcrawler, lo sciacallo, uno dei film della settimana. Vedremo come riuscirà a inserirsi nella classifica dominata lo scorso weekend da Interstellar, ma ci mancherebbe altro con tutto il battage che c'è stato, pro e contro, con quasi 3 milioni di euro di incasso nello scorso weekend. Secondo posto per Andiamo a quel paese della coppia Ficarra e Picone. Terzo ancora Dracula Untold, che è una delle sorprese assolute di questo pezzo di stagione, che ha superato i 4 milioni di incasso globale, così come Il giovane favoloso, avevamo avuto Mario Martone ospite, ne parlavamo la settimana scorsa, ha superato i 5 e quindi, come dire, sta veramente veleggiando verso incassi importanti. A questo punto noi andiamo a sentire invece come vanno le cose sulle strade, fra poco torniamo perché torna anche in sala Michael Fassbender, un beniamino del pubblico italiano, con un film che si chiama semplicemente Frank. Fra poco. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea prosegue parlando di un'altra novità in sala di questo fine settimana, un film che si intitola Frank, semplicemente, diretto da Lenny Abramson e con un cast che vede Maggie Gyllenhaal. Abbiamo visto Jake Gyllenhaal nel film precedente, adesso c'è Maggie in questo, ma soprattutto Michael Fassbender. È una storia, tra l'altro, parzialmente ispirata a una storia vera, quella di una rockstar inglese che è, diciamo, particolare per un motivo, non solo per la band che ama, perché va in giro con una sorta di enorme capoccione di cartapesta, una maschera enorme che ne travisa completamente i tratti somatici del viso. Diciamo, nel film è un impiegato che scrive canzoni, che vorrebbe fare successo attraverso la sua musica, il suo essere giovane musicista, però insomma, a partire dal nome del suo gruppo, i Soron Pfertsb, pensate un po', si capisce che insomma le cose non saranno semplicissime. Sentiamo la clip. Eccola qui, la mia più orecchiabile canzone di sempre. Coca-Cola, lipstick ring, oh, dance all night, kiss me, just kiss me, Nefertiti. Questa è la tua canzone più orecchiabile di sempre? Sì! La gente la adorerà. Boris, avevo visto di Lenny Abramson il precedente film, Garage, al Festival di Torino e mi aveva particolarmente colpito. Lenny Abramson è un regista irlandese che racconta un pochino anche questo retroterra culturale di un'Irlanda cattolica, in certi casi bigotta, come appunto in Garage, o comunque sempre alle prese con un tema di carattere etico-esistenziale. È così anche in questo film? Ma di fatto sì, perché nei suoi precedenti film Lenny Abramson aveva sempre trovato il modo di mettere qualcuno dietro una maschera. In passato la maschera era quella forse di una emarginazione sociale, che però rendeva il protagonista comunque diverso nei comportamenti, diverso anche nei desideri, diverso persino per il luogo in cui stava. E qui in qualche modo prendiamo qualcuno che dovrebbe essere invece inserito, dovrebbe essere famoso, dovrebbe essere pieno di talento, un musicista, e lo troviamo però confinato dentro una maschera, perché non si può dire neanche dietro, perché questa faccia enorme, rotonda, avvolge e in qualche modo invade tutto il film, e racconta più o meno la stessa storia, però la racconta ancora meglio. Devo dire, Abramson ha una sensibilità molto particolare, riesce ad entrare teneramente dentro degli spostati, degli svitati, renderteli simpatici senza renderli particolarmente patetici. Questa è addirittura una comunità, insomma, la più normale sembra Maggie Gyllenhaal, che diciamo non è proprio il massimo del rigore. Dall'altra parte questo Frank poi è, secondo me, reso un gioiello, anzi direi forse anche un capolavoro, da questo Michael Fassbender, che non ti fa pesare neanche per un attimo che non sta recitando con la sua faccia. Hai l'impressione che abbia delle espressioni, la sua capacità attoriale non viene minimamente diminuita da quella maschera, che è la più impersonale che ci possa essere, che non ha nemmeno alcuna mobilità. C'è la musica, che in Abramson c'è molto spesso, che in qualche modo fa da elastico tra tutti i personaggi e fa da contorno e da sfondo e racconta anche qui, se vogliamo, un mondo precario, un mondo che esclude invece di includere. In qualche modo questo fine settimana racconta la stessa storia da tanti momenti diversi, e poi c'è un finale e ci sono dei momenti musicali straordinari. Io devo dire che secondo me sarà una delle sorprese dell'anno, uno dei film più belli dell'anno. E questo per quel che concerne allora Frank, andatelo a vedere, è davvero molto molto particolare. Giochiamo insieme, è arrivato il momento di cominciare a cimentarvi soprattutto con il nostro DVD game e con il riconoscere questo film. Ti ho già detto che oggi sei bellissima, uno spettacolo! Ah, andiamo, vomito, comincia a esserci puzza da queste parti! No, ti odia ancora! Vai! E allora, se avete già indovinato di che film si tratta, il nostro indirizzo è larosapurpurea@radio24.it. Scriveteci il titolo del film, il vostro indirizzo, provate a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film. Più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia. Adesso andiamo un po' in un ambito family, parliamo di un film che sicuramente può mettere insieme tutta la famiglia al cinema, soprattutto se c'è se ci sono dei bambini veramente di tutte le età, perché il film è di grande qualità, i protagonisti sono molto teneri e questo chiaramente ci fa spaziare a livello anche di età. Del target. Stiamo parlando di Il mio amico Nanook di Brando Quilici e Roger Spottiswood, una storia d'amore, diciamo così, fra un ragazzino e un orso polare. Noi abbiamo affidato il compito di andare a vedere questo film alla nostra Chiara Pizzimenti. È tutta la notte che inseguiamo quest'orso. Luke, rientra in casa. Fermi, che state facendo? Stai indietro. Vattene! Corri! Ora. È addormentata. La riportiamo a Cape Resort. Oh mio Dio. Non ci credo. Ciao. Si conoscono così Luke e Nanook, due cuccioli. Duomo il primo, di orso polare il secondo. L'orsetto è stato separato dalla madre, catturata perché si è troppo avvicinata alle case, e il ragazzo lo porta a vivere con sé. Un orso non può, però, stare con gli uomini. I cuccioli imparano tutto dalle loro madri. Imparano a cacciare, a sopravvivere sui ghiacci. Per 2 anni e mezzo sono inseparabili. Non sopravviverebbe un giorno senza la madre. Mio padre mi ha insegnato questo. Così! Riempi ogni singolo minuto con 60 secondi che valga la pena vivere. Tua sarà la terra. E cosa più importante, sarai un uomo, figlio mio. L'orsetto deve tornare dalla madre e Luke lo vuole aiutare. Con lui c'è un amico del padre, mezzo Inuit e mezzo canadese, che conosce il difficile territorio di ghiaccio dove vivono gli orsi. Una missione non semplice fra i pericoli estremi della natura. È una storia d'avventura, di formazione e di scoperta della natura, quella diretta da Roger Spottiswood e Brando Quilici, documentarista figlio di Folco, e ambientata in Canada, interpretata dal giovane Dakota Goyo e da Goran Vinic, noto soprattutto per essere stato uno dei medici di ER. Non è Zanna Bianca e nemmeno il recente La Volpe e la Bambina, anche se c'è una storia di crescita e di rapporto fra animali e ragazzi. C'è però qualcosa di più, la descrizione della natura con la mano di chi fa documentari da sempre e riesce a raccontare i problemi legati al clima senza bisogno di fare arringhe. Allora, questo è il racconto del mio amico Nanook da Chiara Pizzimenti. Dobbiamo parlare ancora di un film importante, perché è firmato dai fratelli Dardenne, che si intitola 2 giorni, 1 notte. È un film davvero molto molto struggente, direi, perché si tratta di una storia che purtroppo ricorre nel mondo del lavoro di oggi. La storia di una donna con 2 figli che ha avuto un problema di salute, ha attraversato una depressione e adesso è pronta a rientrare al lavoro. Ma l'azienda, siamo in Francia, dice se i suoi colleghi voteranno il suo riassorbimento in azienda non prenderanno un bonus di 1.000 euro a testa. Se invece voteranno il licenziamento della donna, arriveranno 1000 euro di bonus. E allora partono questi 2 giorni e una notte di passione, direi davvero, nell'andare casa per casa da tutti i colleghi che voteranno il lunedì di mattina questa decisione, per convincerli che, insomma, salvare un posto di lavoro e forse anche salvare una vita è meglio di qualsiasi bonus. Volevo parlarti a proposito della votazione sul bonus e sul mio licenziamento. Perché Juliette e io abbiamo visto Dumont e lui è d'accordo sul rivotare lunedì mattina, perché Jean-Marc ha influenzato dei colleghi dicendo che in ogni caso Dumont voleva licenziare delle persone. Boris, fratelli Dardenne in splendida forma, direi, perché questa volta, di là della cupezza e della, come dire, intensità del loro cinema, c'è anche una storia proprio che si svolge tutta in una notte, per citare un film celebre, con una Marion Cotillard che ho trovato straordinaria, quasi trasfigurata della sua bellezza pur di essere al servizio del cinema dei Dardenne. Guarda, se di Frank dicevamo che era un gioiello, secondo me questo entra nella storia del cinema e nella storia della modernità, perché in un mondo che non riesce a raffigurare, se non forse con Ken Loach in questo mondo libero e con pochi altri, a raffigurare che cos'è il precariato, che cos'è la perdita progressiva di dignità che si unisce alla perdita progressiva dei diritti, i fratelli Dardenne, con uno dei loro film più ottimisti, attenzione, perché poi lo vedrete ed è sicuramente uno dei film in cui loro percorrono una via meno tragica, meno drammatica del solito, riescono però a ritrarre quello che siamo noi in questo momento, cioè una società in cui non c'è più lo scontro tra ricchi e poveri, ma c'è solo la guerra tra poveri, perché i ricchi hanno capito che è il modo migliore per tenerli sottomessi, e qui c'è questa cosa straordinaria che riescono a fare i Dardenne, che fanno di fatto un thriller sociale per 90 minuti circa, tutti ti ritrovi all'interno di questo ritmo anche sincopato per come il loro cinema normalmente, in cui lei lotta contro il tempo, deve parlare con i suoi colleghi e deve convincerli che è meglio che riprenderla al lavoro, lei che tra l'altro ha avuto forse qualche problema con loro perché ha avuto dei momenti di depressione, non ha avuto un momento facile, piuttosto che prendere 1000 euro in più come una tantum. E tu capisci che non ha colpe lei, ma non hanno colpa neanche loro quando rifiutano, e ti commuovi con loro quando invece fanno questo passo indietro, questo passo d'altruismo. E racconta questa società, 2 giorni e una notte, racconta il fatto che spesso un precario è costretto a camminare sui cadaveri dei propri colleghi per avere successo, e se non lo fa dovrà pentirsi di averlo fatto perché avrà rinunciato alla sua felicità, ma se lo farà avrà camminato sulla felicità altrui, che è un ricatto insopportabile. I Dardenne lo riescono a fare in maniera romantica, in maniera tesa, in maniera emotiva ed empatica. Secondo me è uno dei loro film migliori, meritava assolutamente la Palma d'Oro, e come dici tu, Marion Cotillard, se parlassimo di un film americano probabilmente adesso parleremo di un'interpretazione da Oscar. Non la premieranno, ma lo meriterebbe, perché veramente ha fatto qualcosa di straordinario. E allora, 2 giorni, una notte al cinema, i fratelli Dardenne, linea alla regia, torniamo fra poco, con noi Christian De Sica per parlare della scuola più bella del mondo. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma, ancora dedicato alle anteprime e alle novità in sala di questo fine settimana. Cinema italiano che incontra ancora una volta la scuola come momento nel quale fare un po' da cartina al tornasole anche di che paese siamo, e questo è un pochino anche il tentativo che fa la scuola più bella del mondo, che chissà è la nostra, non è la nostra, boh, adesso lo scopriremo, di Luca Miniero con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro, Miriam Leone, un cast veramente di grandi nomi all'italiana. L'antefatto è semplice: il preside di una scuola media della Toscana invita per uno scambio, diciamo così, una scuola di una città ghanese che è Accra, ma per un errore Accra diventa Acerra e allora in Toscana arriva una sgangherata scuola campana e le cose chiaramente saranno molto molto diverse. Sentiamo questa clip, poi ne parliamo con Cristian De Sica. Uno scambio culturale, preside. Facciamolo anche noi, no? Infatti, potremmo invitare una scuola a indirizzo musicale balcanico. Oppure un paese africano. Hanno una grande tradizione. Bellissima idea. Brava, questo mi piace. L'Africa mi piace molto. Eh sì, perché emotivamente è più coinvolgente. E secondo lei, qual è la tribù più povera, bisognosa? Mi informo, preside. Mi raccomando, li voglio magri e affamati. Cristian De Sica, benvenuto alla Rosa Purpurea, ciao. Sentendo solo questo, diceva questo è un mostro di cinismo, sto preside. Beh, una delle cose belle del film. È un uomo competitivo, però che crede nell'insegnamento. Ti puoi immaginare quando mi vedo arrivare questi bambini bianchi e non neri, mi sfuma tutto perché chiaramente il comune e la regione non mi darà più soldi, allora voglio convincere a dipingersi di nero. Ti puoi immaginare che succede in quella classe e un altro po' ci ammazzano di botte. Comunque è una commedia, un film brillante, divertente, però anche pieno di tenerezza e di ottimismo soprattutto. Io ieri c'è stata l'anteprima qui a Roma al cinema Barberini, c'erano invitati ma c'era anche del pubblico pagante, vedevo che si divertivano. Ma alla fine soprattutto alcuni erano anche commossi perché c'è chiaramente un happy end, un lieto fine, giustamente come sia. Ma da questi due mondi completamente diversi, una scuola sgarrupata del sud e una scuola perfettina ma asettica del nord, si mischiano in uno shaker come dovrebbe essere tutta l'Italia mischiata e ne nasce fuori un cocktail molto buono. Ecco, ed è un po', quindi c'è anche una sua piccola morale questa commediola di Luca Minero. Io sono molto contento di aver fatto un ruolo così perché dopo i grandi successi popolari del film di Natale, dove ho fatto però sempre dei ruoli misogini, maschilisti, parolacciai, prepotenti, qui faccio un personaggio sì all'inizio competitivo e arido, però che dopo si apre verso, grazie a Rocco Papaleo, che invece all'inizio è un professore che si mette le cuffiette per sentire la musica invece di fare lezione, ma vicino a me tornerà ad amare l'insegnamento come lui mi farà tornare ad amare la vita e il prossimo. Senti Cristian, ti volevo chiedere, ma questa scuola più bella del mondo esiste o è solo mitologica? Ma la scuola più bella del mondo penso che esista e tutte le scuole non sono neanche in campagna tutte sgarrupate come quella che noi prendiamo, ma chiaramente spingiamo su certi toni perché è una commedia ed è una favola, però la scuola è fondamentale, ossia forse bisognerebbe dare un po' più di soldi, di stipendio ai professori perché riprendano a essere motivati a portare avanti le classi, perché la scuola è il futuro del nostro paese, quindi è una cosa non da prendere sotto gamba, è una cosa molto ma molto importante. Cristian, tu di solito sei il mattatore dei tuoi film, com'è stato in questo caso avere un ruolo che ti ha, come dire, permesso di recitare con un po' più in sottrazione, diciamo, no? Rispetto agli standard? Beh, io devo dire grazie a Luca Miniero che un ottimo maestro di recitazione perché ci ha frenato a tutti quanti, c'è una performance anche di Lello Arena straordinaria, devo dire che tutti quanti noi, sia i piccoli ruoli che quelli più grossi, siamo tutti molto ben intonati e questo grazie anche a Miniero che ci capisce molto di recitazione, cosa rara perché i registi oggi come oggi non sono maestri di recitazione. Sanno muovere la macchina da presa ma non le voci degli attori e Luca è uno preparato. Il film, guarda, è divertente, penso che sia, soprattutto sai che c'è, che è un film per famiglia, un film per tutti, mancava da tanto tempo, da speriamo che io me la cavo della Vermiller, un film che parlasse di ragazzi, di adolescenti e questo se riesce a prendere l'attenzione dei ragazzi e delle ragazzine, allora forse si fa centro. Avete timbrato i passaporti per i permessi di soggiorno? Ci vuole il visto. E le vaccinazioni? No, non ci vogliono. No, le vaccinazioni da noi non sono obbligatorie. La malaria è stata debellata, non c'è vaiolo, non c'è febbre gialla, ecco. Egregio signore, voi mi state offendendo come uomo e come preside. E poi voi del nord la dovete finire, oh, questa spoglia che tenete. Noi qui giù al sud siamo più civili di voi. Beh, insomma, l'equivoco, l'inganno, il malinteso alla base di questa commedia. La scuola più bella del mondo. Grazie Christian De Sica per essere grazie stato a voi, con noi. L'aspetto al cinema, un abbraccio forte. E dopo Christian De Sica andiamo ad ascoltare la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi. Dobbiamo lavorare ancora parecchio sul tuo volo planato, amico. Sdentato! Cos'è? Adesso fai il broncio, bestiolina? E allora, se avete indovinato di che film si tratta, qui ci sono parecchi indizi dal nome a dei versi che dovrebbero essere abbastanza intellegibili. La Rosa Purpurea, chiocciola radio24.it, è il nostro indirizzo di posta elettronica. Scriveteci titolo e vostro indirizzo per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film. È arrivato il momento di parlare di un'altra pellicola che arriva nelle sale cinematografiche italiane in questo weekend. La scuola è molto presente, avete visto, tematiche che si rincorrono. Abbiamo detto il lavoro, la precarietà da una parte, ma anche la scuola, quella comica in commedia della scuola più bella del mondo, ma quella anche romantica, se vogliamo, di Words and Pictures, film di Fred Schepisi con Clive Owen, Juliette Binoche, che sono i due protagonisti assoluti e principali di questa storia. Ascoltiamo la clip. Allora, volete sapere perché ho lasciato la città? Interessante. È strano, perché io invece non sono curiosa affatto riguardo la vostra vita privata. Non devo imparare a conoscervi, non mi serve la storia della vita di nessuno. Non diventeremo buoni amici. E non sono il genere di insegnante che tornerete a salutare quando sarete grandi. E allora, dicevo, dirige Frank Schepisi, questo è il momento in cui Juliette Binoche arriva in questa nuova scuola. La storia è un po' quella, un bellissimo college americano nel quale insegna letteratura un Clive Owen, professore appunto un po' irregolare, barba lunga, anche una certa capacità di alzare il gomito in certi momenti, ma professore adorato dagli alunni, capitano, mio capitano. Dall'altra parte arriva invece questa Dina del Santo, Juliette Binoche, artista prima ancora che insegnante d'arte, che con i ragazzi instaura subito un rapporto di grande passione, di grande durezza, anche lei molto stimata e riconosciuta. Uno, quello di letteratura, dice: le parole sono l'alimento del nostro cervello e del nostro pensiero. L'altra, quella d'arte, dice: un'immagine vale più di mille parole. Si ingenera una vera e propria guerra, ma fra i due c'è anche una forte attrazione. Dirige, dicevo, Fred Schepisi, che non è un regista qualunque, cioè è un signore che negli anni 80-90 soprattutto ha firmato film come Un grido della notte, come La casa Russia, come Sei gradi di separazione. Insomma, è un regista di quelli tosti che secondo me in questo film ritrova una sua vena narrativa, perché intanto i due attori sono straordinari. Qui siamo sempre alle solite, vedremo come andrà con il doppiaggio in italiano, avendo avuto la fortuna di vederlo in lingua originale. Sentite Clive Owen e sentite soprattutto una Juliette Binoche qui molto terrena, molto ruvida. Quindi davvero questo conta molto. E poi una sceneggiatura davvero di ferro, che mette insieme il racconto della scuola, il racconto, se vogliamo, appunto, di un'età di transizione, come quella della tarda adolescenza, e il rapporto con i professori, che a loro volta poi hanno così un'attrazione fra di loro. Boris, due parole su questo film, che a mio modo di vedere rilancia un pochino l'idea che si possa fare un cinema d'amore, forse sentimentale, con un tratto di commedia, ma insomma piacendo anche a un pubblico che vada oltre quello delle coppie. Sì, assolutamente sì, è un film scolastico nel senso del genere, ma nel senso forse anche del racconto, perché è molto schematico, molto irregimentato. Tra l'altro adesso c'è questa moda dei film che rivalutano la scuola. Di solito i professori arrivano in scuole devastate e le rivalutano. Invece in questo senso la scuola diventa un'istituzione che raccoglie anche dei talenti. Qui è interessantissimo quello che Schepisi fa e che faceva anche nei film che hai citato tu, cioè quello di valorizzare gli attori e di valorizzarli sempre in una battaglia che preveda da una parte la mente, la parola, e dall'altra parte il fisico. È un film scolastico anche in questa guerra e nel modo in cui si porterà la storia fino alla fine, però è fatto bene perché la regia è assolutamente rigorosa, dignitosa e molto presente, e dall'altra parte i due attori danno il meglio. Non ti fai sorprendere dal film, non è quel genere di film che ti sorprende, ma è quel genere di film che ti accarezza, che ti porta all'interno di un sentimento e di ideali che alla fine ti fanno uscire, non so se migliore dalla sala, ma sicuramente più contento, e quindi secondo me il suo lo fa. E allora, visto che il suo lo fa, andiamola a vedere anche Words and Pictures. Ce ne sarà sicuramente per tutti i gusti, anche per quelli che amano appunto il potere delle immagini o quello delle parole. Grazie Boris, ci risentiamo. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, io prima di dare la linea alla regia voglio segnalare anche in sala Il Leone di Vetro, un film che racconta un passaggio importante della storia italiana nell'ottobre 1866, il referendum, diciamo così, per l'unificazione con l'Italia a un solo paese. Il film è in distribuzione in una decina di sale in tutta Italia, soprattutto in Veneto, lo segnalo perché tanti nostri ascoltatori del Nord-Est possono essere interessati a questo film, che tra l'altro è nel cast anche Christian Jansante, uno dei più importanti doppiatori italiani. Viabilità, fra poco torniamo e parliamo di tutto il cinema che c'è da vedere in casa. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea, quarta parte, il cinema da vedere in casa, ma prima il cinema da leggere sui dizionari, perché il cinema sempre di più, da ormai più di 20 anni, è anche qualcosa da collezionare in rassegne, in dizionari che alla fine dell'anno ci danno un po' il senso di quello che è successo nel mondo del cinema dell'anno precedente. Il nostro dizionario del cuore, diciamo così, anche per antica amicizia, è il Morandini, anche quest'anno pronto, dato alle stampe nella sua voluminosità ma anche nel suo rigore filologico e critico. Luisa Morandini in collegamento con noi. Ciao Luisa. Buongiorno a tutti. Eccoci qua, siamo pronti. Allora Luisa, Morandini 2015, al di là di qualche novità di cui adesso parleremo, ogni anno ovviamente assegnate pallini da 1 a 5 nei film che scegliete. Non è facile, poi riconoscendo il rigore di Morando, non è facilissimo arrivare a 5, anzi sono pochi, se vogliamo, no? Nella storia sono 87 i film che hanno ottenuto le 5 stelle del Morandini su 25.500 che sono recensiti, quindi per darvi l'idea un po' della difficoltà. Però insomma, qualche 4 stelle anche l'anno scorso c'è stato, li ricordiamo a partire da Le Meraviglie di Alice Rohrwacher, che è anche il film di copertina di questa edizione 2015, a passare a Grand Budapest Hotel, che io ho amato tanto, American Hustle, Molière in bicicletta e La Gabbia Dorata. Qual è il tuo 4 stelle del cuore, Luisa? Sono indeciso tra La Gabbia Dorata e Molière in bicicletta, che sono, tu dici, proprio agli antipodi, sì, però mi sono entrati nel cuore un po' tutte e due per motivi molto diversi. Anche se la stagione passata è stata una stagione un po' anomala, perché sono usciti meno film del solito e il livello non è stato poi generale così elevato, per cui adesso è vero che noi siamo severi, però è anche vero che non ci sono state offerte poi così tante occasioni di essere meno severi. Beh, al contrario di questa stagione, che secondo me si sta presentando molto interessante e molto bene. E allora, molte stelle l'anno prossimo, quindi. Per il momento avete bacchettato Maps to the Star di Cronenberg, Edge of Tomorrow, e qui io non sono d'accordo perché io l'ho amato molto Edge of Tomorrow, e Grace di Monaco, invece lì sono molto d'accordo, che si sono beccati 2 stelle a casa, forse per Grace di Monaco ne bastava una. Però la cosa che voglio dire è anche questa, avete fatto quest'anno anche, Luisa, una cosa particolare, sì. C'è un premio Morandini corti d'autore. Il Morandini parla di cortometraggi, ce ne sono diverse centinaia recensiti, ma questa volta siete andati oltre, cioè siete andati a chiedere proprio di presentare, di fare un vero e proprio concorso di cortometraggi, che avrà una giuria tra l'altro importante presieduta da Ferzan Özpetek, e i 3 vincitori di questo concorso finiranno nel Morandini dell'anno prossimo. Sì, la cosa interessante, poi oltre al fatto che finiscono nel Morandini dell'anno prossimo accanto ad altri giovani autori di cortometraggi, ma anche accanto ai grandi che hanno fatto dei corti, da Chaplin a Herzog a Bertolucci, insomma, cioè, saranno messi insieme, ma direi che forse la cosa più interessante del nostro premio è che dopo aver parlato tanto con gli esercenti, discusso e combattuto anche, ho ottenuto che i film vincitori del nostro premio saranno proiettati nelle sale milanesi. Un esercente ha accettato con entusiasmo di distribuire il corto accanto al film in programmazione normale da maggio. L'Interstellar di turno avrà prima il nostro vincitore. La Cineteca di Bologna aderisce a questa iniziativa e probabilmente sarà proiettato anche alla Cineteca di Bologna, e si sta muovendo anche qualcosa a Roma, ed è una bella occasione, un'occasione di visibilità. Assolutamente, beh, insomma, è quello che si dovrebbe fare coi corti, accoppiarli ai lunghi, cioè portarli al cinema come sostegno, e questo darebbe una visibilità anche a tanti giovani autori. Ma chissà perché, sono tipo 15 anni che lo sento dire e lo diciamo, ma non succede quasi mai. Stavolta invece succede, grazie al Morandini 2015. Luisa, in bocca al lupo per questa nuova edizione del dizionario, e a presto. Grazie mille e a presto. E allora andiamo a vedere un po' come erano andate le cose la settimana scorsa con il nostro game. Avevamo giocato con questa clip. Dopotutto, domani è un altro giorno. Beh, insomma, una dichiarazione di intenti, un titolo, un mito, quello di Via col vento, era il nostro film misterioso della scorsa settimana. Avete partecipato in tanti, avete indovinato in molti, i più veloci e che vinceranno e riceveranno una splendida edizione in Blu-ray di questo film con un cofanetto per i 75 anni di Via col vento sono Giacomo Scarabicchi di Calenzano, provincia di Firenze, e Maddalena Ghigo di Casale Monferrato, provincia di Alessandria. Saranno loro allora a ricevere questo cofanetto, di cui voglio parlare con gli amici di Film TV e con Giulio San Giorgio, che è in collegamento con noi. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, per festeggiare i 75 anni di Via col vento la Warner Bros. Ci invita tutti quanti a farci un bel regalo. Edizione speciale Blu-ray a 3 dischi, qualcosa di cui francamente non ci si può infischiare, con un packaging in cartoncino e libro fotografico di 36 pagine. Il film rifulge di vera bellezza con un'immagine già restaurata per la precedente edizione, che qui si ripropone in un Technicolor meraviglioso. E l'audio invece è il carattere in cui si sente maggiormente l'età del film, e quello italiano risulta più sporco di quello inglese. Ma la vera ciliegina sulla torta sono gli extra, esagerati almeno quanto un film, un making of di 2 ore, un documentario sul 1939 che fu un anno splendente per Hollywood, la ricostruzione della ricerca della perfetta Rossella O'Hara e tantissimi altri contenuti. E questo per quel che concerne allora il game della scorsa settimana, Via col vento, in questa edizione speciale del 75esimo anniversario. Arriva in DVD, Giulio, anche un film della scorsa stagione cinematografica che si intitolava The Canyons e vedeva Lindsay Lohan protagonista con la firma di Paul Schrader. Sì, un film girato da Paul Schrader che molti si ricordano come sceneggiatore di Taxi Driver, ma in realtà è un regista di bellissimi film, sempre tesi tra il noir e il melò. Un film scritto da Bret Easton Ellis, romanziere che è il cantore della vuota superficialità di oggi tra merci e moralità, almeno da 30 anni a questa parte. Il Blu-ray è fedele alle caratteristiche del film, che è girato a bassissimo costo e decisamente poco spettacolare, ma che è soprattutto una riflessione su un'epoca in cui i cinema stanno chiudendo, gli occhi delle persone sono spiritati dal troppo uso degli smartphone, la realtà sta scomparendo in nome della paranoia e la moralità risulta solo una parola. È un film stilizzato e glaciale, ma a suo modo è uno squarcio epocale. E allora, Paul Schrader, per il nostro secondo consiglio in un video, diamo una spulciata ai palinsesti TV e troviamo un film di grande rigore e anche di grande intensità, come Un gelido inverno, su Rai Movie alla 1:05 di notte di mercoledì 19 novembre. Sì, storia di una giovanissima interpretata da una già bravissima Jennifer Lawrence, che è alla ricerca del padre per salvare la propria famiglia nell'America misera e profonda del Missouri. Una ballata folk veramente molto oscura, un viaggio di formazione allucinato tra zotici e spettri. È davvero un bel film tratto da un altrettanto ottimo romanzo. E allora ricordiamo ancora l'appuntamento, mercoledì 19 novembre, 1:05 di notte, Rai Movie, Un gelido inverno, Jennifer Lawrence protagonista. Giovedì 20 novembre, il giorno dopo, andiamo in Italia perché c'è la prima TV su Rai 3 alle 21:05 in prima serata di Reality. Sì, anche questo, come The Canyons, di cui parlavamo prima, è un film su, una, su un mutamento antropologico, perché è un film che racconta la storia di, del napoletano Luciano, ossessionato dal Grande Fratello, un uomo che vuole entrare nella casa a tutti i costi e che inizia a credere che l'organizzazione lo stia tenendo d'occhio per selezionarlo, come se lui vivesse davvero la vita quotidiana all'interno di un Grande Fratello. È un film che racconta come la tecnologia e i media possono cambiare il modo di percepire il mondo, ed è una buffa e un po' tragica degenerazione della commedia italiana, e anche qui uno squarcio sull'Italia contemporanea. E allora ancora Reality, Matteo Garrone, Prima TV, Rai 3, 21.05 di giovedì 20 novembre. Grazie Giulio e buona settimana anche agli amici di Fil TV. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla conclusione quindi della nostra trasmissione. Non mi resta che darvi appuntamento alla prossima settimana, come sempre il sabato alle 18 qui su Radio 24 alla Rosa Purpurea, per parlare di tutto il cinema che c'è. Un saluto da Franco D'Assisi.